a questo livello, soprattutto guardando il contratto fra i due partiti, è davvero da rimanerne così molto. Io sono rimasto molto scioccato, soprattutto perché è chiara la linea che il contratto sta prendendo, soprattutto sui migranti, sui rom, sui senza fissa dimora, sul decoro urbano. Avremmo delle strette che da far paura, cioè io sinceramente non so dove andremo a finire. Io vorrei soltanto sperare che gli italiani abbiano il coraggio di avere gli anticorpi che hanno gli americani. Gli americani con Trump sono avuti la disgrazia di avere un Trump, però stanno tirando fuori i loro anticorpi. Sono arrivati al punto in cui uno Stato, come la California, ha deciso di diventare Stato santuario, dove il Presidente non può venire a sbattere fuori chi lui vuole sbattere e far ritornare chissà dove. Questo mi sembra essere l'invito che io farei all'italiano. Se veramente crediamo che siamo un'unica umanità su questo pianeta, allora dobbiamo reagire. E reagiremo se saremo capaci, come società civile e come chiese, a diventare, a farci quello che è chiamato negli Stati Uniti il movimento santuario, the sanctuary movement, cioè dove le chiese, ma anche una contea, un municipio, un comune può dire no, tu Stato non puoi intervenire qui sui migranti o su altro, rispondo io per loro, vado in tribunale io per loro. È l'unica maniera in cui potremmo rovesciare questa situazione. Quindi insomma un movimento civile antirazzista che tenga dentro tante componenti. Certo, dalle chiese alla società civile, a tutti quelli ai quali sta a cuore l'uomo prima di tutto, perché noi rischiamo a questo punto davvero di ritornare con quello che sta arrivando non solo in Italia ma ovunque. Vedo gli Stati Uniti, ma vedo realtà drammatiche come Duterte nelle Filippine, Modi in India, c'è tutto questo fenomeno crescente. Io penso che toccherà l'umanità intera adesso incominciare un po' a ribellarsi a tutto questo. Secondo lei perché queste nuove forme di razzismo e di autoritarismo hanno preso piede? Perché ricordiamo che appunto questo governo si insedia perché molti italiani l'hanno votato. Certamente, è difficile, bisognerebbe fare un'analisi, ci vorrebbe del tempo per rispondere a una domanda che ritengo abbastanza complessa, anzi ci vorrebbe un sociologo, io non sono un sociologo di professione. Per me la prima cosa che sta venendo fuori è il razzismo di fondo che noi italiani abbiamo sempre quasi tenuto nascosto. Mi spiego, noi per anni, per secoli, ci siamo sentiti i buoni, i bravi, che noi avevamo la cultura, la civiltà, la religione. Questo palato ha fatto da sostrato, l'ho visto in Africa, i disastri, è stato sottostante allo schiavismo, al colonialismo, al neocolonialismo. Adesso che queste persone che noi avevamo pensato di relegare nel sud del mondo, entrano e ce le abbiamo noi qui, toccano i nostri calli, se vogliamo dire così, chiaramente rimaniamo esterrefatti e scatta quel meccanismo. Lo posso dire come missionario: finché io domandavo soldi o aiuti per i poveri del sud del mondo, per esempio nelle baraccopoli, cavoli, generosità enorme, con adozioni a distanza a non finire. E invece gli italiani devono abituarsi a capire che oggi bisogna andare a adozioni a vicinanza. Vale per gli immigranti, vale per i rom, contro i quali abbiamo tutto un sottofondo, tutti di razzismo profondo. Per cui qui ci vuole davvero, qui dove le chiese, le religioni dovranno giocare un ruolo enorme, perché toccano le coscienze delle persone. Ma sarà un lavoro molto complesso e molto lungo, secondo me.